Io mi chiamo Giulia e faccio la contadina in realtà solo da un paio d'anni, prima facevo tutt'altro, e per l'azienda per la quale lavoro, della quale sono socia, è dentro Campi Aperti da direi 6 anni. E io mi sono aggiunta al nucleo iniziale dell'azienda, che è formato da Elena e Lorenzo, che sono una coppia e hanno iniziato questo percorso anche loro provenendo da tutt'altro ambito, lavorando la terra del papà di Lorenzo e cominciando a fare agricoltura biologica lì. Produciamo ortaggi, vino genuino clandestino, quindi diciamo, non etichettato, prodotto in casa, e farine. Come mai questa scelta, provenendo appunto tutti da ambiti diversi, di buttarvi nell'agricoltura, diciamo? Ma io racconto la mia esperienza, che insomma è probabilmente diversa anche da quella degli altri, anche se forse ne intercetta alcune ragioni. Io vengo dall'ambito universitario, facevo la ricercatrice in semiotica all'Università di Milano e lavoravo anche con l'Università di Urbino, ma diciamo la carriera stava diventando molto difficile da intraprendere, diciamo che il mio desiderio di restare all'interno università era diventato più un'ostinazione che un segno di caparbietà, diciamo. La mancanza di assegni di ricerca, di finanziamenti all'università, in più un ambiente fondamentalmente malato, mi impediva di continuare nella carriera che avevo iniziato. L'agricoltura mi è sempre piaciuta, nel senso che una parte della mia famiglia è contadina e ho sempre cercato di coltivare quello che mangiavo, anche se con le difficoltà che ci sono nel fare questo vivendo in città. Quindi quando ho conosciuto Elena e Lorenzo attraverso un'altra amica comune, ho cominciato a lavorare con loro e ho deciso che per me l'università poteva anche ecco, e che sarei stata felice in campagna, e effettivamente dopo 2 anni posso dire che lo sono, ho fatto la scelta giusta. E invece proprio all'interno dei Campi Aperti come ti trovi? E vabbè, in questo caso la decisione non è stata tua, nel senso che sei entrata in una realtà che già c'era, però hai comunque scelto di entrare in quella realtà che faceva parte di questa rete. Come ti trovi dentro Campi Aperti? Ah, dentro Campi Aperti mi sento a casa, sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista ideale, politico e valoriale, in generale etico, per la scelta di insomma, promuovere un insediamento contadino che in Italia è sempre più difficile da intraprendere come carriera, insomma come scelta di vita. Campi Aperti sostiene appunto l'insediamento contadino, questa secondo me è la cosa più importante che l'associazione fa, cioè persone che vengono per la maggior parte da altri ambiti che cercano di rendere questo stile di vita sostenibile dal punto di vista economico, che è il grosso scoglio, perché i contadini che vendono alla grande distribuzione devono vendere a dei prezzi bassissimi, inadeguati a consentire un autosostentamento. Quindi Campi Aperti, promuovendo una rete di mercati a chilometro zero nella città di Bologna, ci consente di vendere direttamente i nostri prodotti al pubblico, quindi di mantenere un prezzo che diventa poi sostenibile per i costi che un'azienda agricola deve sostenere, e di portare direttamente appunto i prodotti al consumatore, che poi noi non chiamiamo consumatore, chiamiamo coproduttore, perché il fatto di scegliere consapevolmente di fare la spesa ai nostri mercati piuttosto che andare alla Coop, per dire, ci consente di sopravvivere, quindi anche lui in qualche modo produce il prodotto stesso che poi acquista. La giornata di oggi che cosa rappresenta, anche col coinvolgimento di tante altre realtà diverse? Lo scopo essenziale della giornata è quello di discutere con la cittadinanza i temi che fondano le ragioni etiche della nostra associazione, quindi oltre a quelle che ho già citato, quindi il promuovere l'insediamento agricolo, il rispetto del lavoro inteso come attività dignitosa. Quindi in contrapposizione per esempio allo sfruttamento di migranti nell'agricoltura, noi promuoviamo un tentativo di inserimento lavorativo compiuto del bracciante agricolo e in generale del contadino. È un lavoro dignitoso che deve essere valorizzato, diciamo.